Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Istat ad agosto prosegue la crescita dei posti di lavoro, più 83.000 occupati. Coronavirus, Conte, proporremo al Parlamento la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Presidenziali americane, secondo i sondaggisti Biden è in vantaggio su Trump di 8 punti dopo il primo faccia a faccia televisivo. Navalny accusa Putin, c'è lui dietro al mio avvelenamento, dice il leader dell'opposizione russa. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano la politica, il governo, avete sentito, proporrà la proroga dello stato d'emergenza, lo ha detto Conte. C'è una frenata anche invece sul dossier autostrade, l'accordo sembra più lontano. E poi Biden in vantaggio su Trump, dopo il faccia a faccia televisivo questo sarebbe l'esito secondo i sondaggisti. Di tutto questo parliamo tra un attimo, prima la pagina economica con i dati Istat sulla disoccupazione, che ad agosto è calata perché è proseguita invece la crescita degli occupati che era già stata registrata a luglio. Sentiamo. Numeri quelli diffusi dall'Istat che mostrano dei timidi segnali di risveglio del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione ad agosto scende allora al 9,7%, meno 0,1 punti rispetto a luglio. In particolare l'occupazione su base mensile segna più 0,4%, pari a più 83.000 unità. A beneficiare della maggiore occupazione soprattutto gli uomini e i lavoratori autonomi, penalizzati i giovani con il tasso di disoccupazione per la fascia di età 15-24 anni che sale al 32,1%, più 0,3 punti rispetto a luglio. Su base annua, tuttavia, il calo occupazionale risulta dell'1,8%, con 425.000 unità in meno. Nei 12 mesi la diminuzione non riguarda i lavoratori permanenti, che crescono di 135.000 unità, ma soltanto i dipendenti a termine e gli indipendenti. 350.000 infine i posti di lavoro persi rispetto a febbraio, ultimo mese prima del lockdown. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore. Il governo, dicevamo, sta valutando l'ipotesi di una proroga dello stato d'emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio. Anzi, ha detto Conte che arriverà presto una proposta in tal senso in Parlamento. Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio, lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Noi lavoriamo perché si evitino lockdown, dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza, e monitoriamo con grandissima attenzione di giorno in giorno. Banco di prova le scuole, dove in alcune regioni, aggiunge Speranza, i test rapidi sono già partiti e l'auspicio è che nel giro di poco si possa partire dappertutto. La curva dei contagi in Italia è stabile, con l'ultimo aumento rilevato di 1.851 casi e 19 decessi. E sul fronte della ricerca ci sono anche esperti dell'ospedale Sacco di Milano, nel team guidato dall'Università di Washington, che ha scoperto due super anticorpi in grado di bloccare l'ingresso del virus nelle cellule. L'Europa resta nella morsa dell'epidemia, con la Spagna che estende il lockdown parziale in tutta la città di Madrid, mentre Parigi, dove gli indicatori sono tutti fuori dai limiti, non subirà, almeno per oggi, la temuta stretta del governo, riservata per ora a Marsiglia, Aix e alla Guadalupe. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore. E su un altro dossier, quello relativo ad autostrade, c'è una frenata, la vicenda è in stallo, lo ha ammesso lo stesso Giuseppe Conte. Il governo avrebbe preso 10 giorni di tempo prima di riportare la questione in Consiglio dei Ministri. Sentiamo Conte. Su autostrade ieri è filtrata la notizia, l'ho vista pubblicata oggi sui giornali, c'è stata una riunione tecnica di aggiornamento da parte dei delegati del governo che stavano seguendo la trattativa, mi sembra che ci sia uno stallo, a questo punto la questione ritorna al Consiglio dei Ministri, al primo Consiglio dei Ministri utile per le valutazioni conseguenti. Non aggiungo altro, è una società quotata, c'è un titolo in borsa. Sabato inizia il processo per il caso Gregoretti, dove c'è anche imputato Matteo Salvini, e quindi una settimana importante. Sentiamo. Le modifiche dei decreti sicurezza saranno portate al Consiglio dei Ministri di lunedì. A confermarlo è il Premier Conte dopo le polemiche tra Democratici e 5 Stelle sulla reintroduzione della protezione umanitaria cancellata dai decreti Salvini. Dopo il referendum sul taglio dei parlamentari, il leader leghista intanto oggi torna a chiedere che non sia questo Parlamento ad eleggere il capo dello Stato. Tutto il centrodestra si prepara invece alla 3 giorni a suo sostegno, che inizia oggi a Catania, un appuntamento organizzato in coincidenza con l'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno per la vicenda di nave Gregoretti. Sul tema delle riforme costituzionali, questa mattina intanto il Partito Democratico ha presentato il suo disegno di legge sul superamento del bicameralismo perfetto e il rafforzamento del governo con la sfiducia costruttiva, una proposta sulla quale il segretario Dem Zingaretti ha aperto al confronto con tutte le forze politiche. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di migranti e di cittadini di origine straniera, in Sicilia, a Marsala, la polizia ha arrestato i responsabili di alcuni violenti raid proprio contro un gruppo di persone extracomunitarie massacrate con violenza senza ragione. Organizzavano raid notturni in cui andavano a caccia di immigrati africani che picchiavano e insultavano. Con le accuse di violenza privata, minacce e lesioni personali aggravate da odio razziale, sono stati arrestati oggi Salvatore Crimi, 18 anni, Anthony Licari, di 24, e Natale Salvatore Licari, 34 anni, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura di Palermo. I pestaggi sono avvenuti quest'estate nel centro storico di Marsala. Colpivano non soltanto gli immigrati, ma chiunque provasse a fermarli, come il caso di un commerciante che prese le difese di una vittima. Intimorite dalla ferocia del gruppo, nessuna delle vittime ha collaborato alle indagini, alcuni hanno pure rinunciato alle cure mediche. Stamattina intanto la Guardia Costiera tunisina ha ripescato i cadaveri di 6 migranti, 3 donne e 3 uomini, al largo di Ben Guerdane. Potrebbero essere migranti vittime di un naufragio. Proprio ieri la Guardia Costiera tunisina aveva tratto in salvo nella stessa zona 68 migranti a bordo di un gommone in difficoltà. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora torniamo a parlare della corsa alle presidenziali americane, perché il primo sondaggio pubblicato dopo il duello televisivo tra Donald Trump e Joe Biden dice che il candidato democratico è in vantaggio di alcuni punti. Daniele Biacchessi. In politica i sondaggi sono indicatori importanti, ma non sempre veritieri, come abbiamo potuto osservare da molti anni a questa parte, e ciò vale in Italia come anche negli Stati Uniti, dove le previsioni degli analisti sono spesso stati ribaltati. Una cosa sembra certa nella campagna elettorale tra Joe Biden e Donald Trump prima dell'appuntamento decisivo del 3 novembre. Il primo duello televisivo è stato ampiamente vinto dal candidato democratico, 8 punti in vantaggio sul presidente americano, secondo Real Clear Politics. E analizzando i sondaggi disponibili, compreso l'ultimo della CNN, Biden è in testa su Trump, a passo nervoso, aggressivo, poco chiaro su alcune risposte relative alla gestione del Covid-19. Biden medita di non partecipare più ai prossimi appuntamenti televisivi di Miami, il 15 ottobre, e di Nashville, il 22 ottobre. Sarebbe un grave errore. Non si lascia mai il campo prima della fine di una partita, perché anche se i match televisivi non spostano granché rispetto al peso politico di un candidato, rappresentano pur sempre lo specchio di un paese, e quello a cui abbiamo assistito in televisione è stato con ogni probabilità il peggior dibattito politico della storia delle presidenziali americane. Molte cose dovranno cambiare a Miami e Nashville, con regole più severe e stringenti, preferendo la soluzione dei problemi alla gazzarra. E intanto il segretario americano Mike Pompeo in Italia non sarà ricevuto oggi da Papa Francesco, ma dal cardinale Parolin. Sulla carta il motivo è che il Papa non incontra i leader in periodo elettorale, ci sono le elezioni americane. Sullo sfondo però c'è la crisi diplomatica dovuta all'accordo tra il Vaticano e la Cina per la nomina dei vescovi, accordo che non piace all'amministrazione Trump. Sentiamo il vaticanista Giacomo Galeazzi al microfono di Katia Caramelli. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono a ridosso di un voto che determinerà molto anche dei futuri scenari geopolitici planetari, e quindi inevitabilmente quell'accordo con la Cina, che ricordiamo è un accordo interno che riguarda le diocesi, i vescovi, quindi non è un accordo prettamente politico o geopolitico, ma un accordo, diciamo così, di negoziazione di spazi di libertà religiosa, come avveniva con l'est europeo durante la Guerra Fredda, ma è finito nel mirino polemico del segretario di Stato americano Pompeo in un momento molto particolare della vita politica statunitense, come il periodo preelettorale. Quindi io la vedrei più in chiave, diciamo così, di politica interna americana piuttosto che di rapporti internazionali. Ovviamente non è possibile raggiungere una situazione ottimale con un regime che comunque comprime le libertà politiche e anche la libertà religiosa. Quindi ovviamente laddove la Chiesa ha necessità, come in Cina, di mediare per avere spazi possibili di libertà religiosa, la situazione non è di per sé ottimale. Quindi ci sono tante situazioni nelle quali sono state negli anni e anche nell'ultimo periodo compresse le libertà dei cattolici cinesi, dei cristiani cinesi. Ancora una notizia dall'estero: dietro l'avvelenamento del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny ci sarebbe direttamente il presidente russo Vladimir Putin. A dirlo lo stesso Navalny, che ha fatto questa dichiarazione in una intervista al settimanale tedesco The Spiegel. Anche su questo caso l'Unione Europea torna poi a chiedere piena collaborazione a Mosca. E ora invece torniamo in Italia con la cronaca, racconto di un importante evento che si inaugura oggi, il Salone Nautico di Genova, un'edizione speciale con meno eventi in presenza. Andrea Ferro. Sì, buongiorno da Genova. La voglia di mare è più forte della paura e battezza la 60ª edizione del Salone Nautico, che questa volta vanta un primato in più. È l'unico boat show organizzato in questo anno segnato dall'emergenza sanitaria. Le altre grandi manifestazioni del settore, da Cannes a Monte Carlo, sono infatti saltate. Anche a livello nazionale, l'unica grande fiera dopo i forfè dei mesi scorsi. Poco fa si è conclusa la cerimonia di inaugurazione con la ministra dei trasporti e delle infrastrutture De Micheli. Una giornata particolare non solo per Genova e la Liguria, come ha sottolineato al nostro microfono il presidente della regione Toti. Abbiamo sostenuto le nostre imprese, oggi siamo qua a fare con loro una straordinaria manifestazione e anche la dimostrazione in ultimo della tenacia del tessuto imprenditoriale italiano, perché non era scontato avere queste adesioni qua oggi. Il Salone del Coraggio, come dicevo, la voglia di mare che vince su tutto, un salone che non si ferma mai, è un po' lo slogan di questa manifestazione. Alessandro Campagna, direttore generale dei Saloni Nautici. È un salone molto importante per diversi aspetti, uno perché anche per il mondo fieristico rappresenta un po' il simbolo della ripartenza, e poi rappresenta, come dire, di nuovo il momento di contatto tra il mondo della nautica e gli amanti del mare, dove l'esperienza nel nostro settore è tutto. E da Genova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro. 13:13, facciamo un break e torniamo tra poco con tutte le altre notizie. I nostri approfondimenti ripartiremo dal dossier autostrade, perché la soluzione, lo avete sentito dalle parole di Conte poco fa, è più lontana. Il motivo sarebbe la manleva che Atlantia non vuol concedere a Cassa Depositi e Prestiti. Che cos'è la manleva? Ecco, lo racconteremo e lo spiegheremo tra poco. 349-238-6666. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Ci hai mai pensato? Con i ragazzi c'è sempre qualcosa da festeggiare. Un compleanno, un onomastico, una cerimonia, una ricorrenza, un bel voto a scuola. Ma hai mai pensato a premiarli in modo originale? Scegli i buoni dedicati ai minori, garantiti dallo Stato italiano, sottoscrivibili in tutti gli uffici postali. Il regalo ideale per il loro futuro. I buoni di Cassa Depositi e Prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d'età sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Istat ad agosto prosegue la crescita dei posti di lavoro, più 83.000 occupati. Coronavirus, il Presidente del Consiglio Conte dice: proporremo al Parlamento la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Autostrade, l'accordo si allontana, il governo prende tempo, il nodo è la manleva sul crollo del Morandi che Atlantia non vuol concedere. Ne parliamo tra poco. E allora, alle 13:17 minuti, cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno è con noi il collega del Sole 24 Ore, Maurizio Caprino. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E anche Egle Possetti, presidente del Comitato per il Ricordo delle Vittime del Ponte Morandi. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Maurizio Caprino, sembra, lo abbiamo sentito poco fa dalle parole proprio di Conte direttamente, che l'accordo che era nato a luglio sul futuro di autostrade con l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti si allontani, torna in primo piano l'ipotesi della revoca, con tutto quello che significa in termini di blocco degli investimenti, rischio per i posti di lavoro, tra l'altro, ma anche il costo enorme delle penali. Ma al di là di questo, il nodo sembra essere quello della manleva che Atlantia non sarebbe disposta a concedere a Cassa Depositi e Prestiti, in particolare, se abbiamo capito bene, proprio sul crollo del Ponte Morandi. La manleva è una garanzia, no? Ecco, però ci spieghi esattamente che cos'è in questo caso la manleva, qual è il nodo in questo momento? Allora, il nodo è il tenere indenne da responsabilità chi subentra, quindi Cassa Depositi e Prestiti, rispetto a responsabilità che verosimilmente sono dovute a chi vende, quindi Atlantia e Autostrade per l'Italia. Sono responsabilità che si riferiscono al passato, quindi appunto alla gestione di Autostrade per l'Italia, ma poi possono anche affondare le radici ancora prima, cioè alla costruzione del Ponte Morandi, e sicuramente ci sarà molta battaglia per affermare che Autostrade per l'Italia avrebbe fatto in maniera diversa se avesse saputo che c'erano dei difetti occulti d'origine. Questa è una battaglia legale, intendiamoci, è una battaglia legale, quindi si gioca molto anche sui cavilli, su quelle che sono tutte le possibilità che offre la legge, la procedura, eccetera eccetera. Altro conto è la verità storica, che è quella che interessa di più i cittadini in questo momento, sia il sapere che per almeno un ventennio sono state omesse delle manutenzioni, sono state omesse da privati che hanno fatto dei profitti, e tutto questo è accaduto mentre lo Stato non ha voluto controllare. Ecco, questa è la verità storica. La verità legale ci porta a una situazione molto più intricata, per cui a questo punto non si sa dove si va a finire concedendo appunto questa manleva, e tutto un intrico di questioni, e le posizioni sono assolutamente ferme, ma devono essere ferme perché siamo vicini, come dire, a una conclusione. Quindi è chiaro che in questo momento chi cede per primo ha perso la partita. Ecco, insomma, aggiungo un elemento, perché che la questione della manleva sia intricata anche per via dei procedimenti giudiziari in corso è un fatto legato per esempio alla questione che ci sono coimputati anche funzionari e membri comunque del Ministero dei Trasporti, che per il loro mancato per il loro mancato controllo, per gli omessi controlli, per non aver avvertito i superiori di cose che erano venute a conoscenza riguardo proprio alla mancata manutenzione del Ponte Morandi. Egle Possetti, però, le voglio chiedere cosa ne pensa di questa situazione. Sostanzialmente i Benetton non ci stanno a mantenere su di loro, mentre vendono Autostrada, la responsabilità del crollo del ponte. Fondamentalmente è un po' questo di cui stiamo parlando. Secondo voi chi dovrebbe pagare per il crollo del ponte? Guardi, allora dovranno pagare quelli che saranno che saranno ritenuti colpevoli alla fine. È chiaro che in questo frangente, se io fossi Cassa Depositi e Prestiti, è logico che non accetterei di non avere la manleva, perché c'è già un procedimento in corso, direi abbastanza grave. Sono morte 43 persone sotto quel ponte, e la gestione in quel frangente era di Autostrade per l'Italia. Per cui, al di là di tutti i cavilli e di tutte le cose che potranno emergere, però la verità è che la gestione era fatta da loro, no? E quindi poi ci potranno essere i loro delegati che non hanno operato bene, questo non lo so, ma come cittadini credo che non abbiamo nessuna voglia di essere presi in giro, per cui secondo me su questa vicenda è chiaro che lo Stato deve essere molto deciso, è questo che chiediamo noi, perché non ci sentiamo presi in giro. Ieri guardi, un suo collega mi ha detto: ma come mai voi parenti non vi interessate solo del processo e vi interessate anche di queste questioni societarie? Ma perché noi siamo anche cittadini e non credo che sia molto bello essere presi in giro. No, certo, anche perché aggiungo che non è che con una mano si può fare un processo e con l'altra, senza che si parlino, si può aprire un percorso industriale nuovo senza che le due cose, diciamo, si parlino. Maurizio Caprino, poco fa la ministra De Micheli ha detto: sì, effettivamente credo di sì, la revoca è più probabile. Effettivamente è cambiato qualcosa, ci hai un po' descritto tu prima negli ultimi giorni. Quali sono a questo punto, vogliamo semplificare, a due ipotesi sul tavolo? Si raggiunge un accordo in extremis, magari una mediazione economica su questo fatto della manleva forse, oppure c'è la revoca? Sì, teoricamente sì, però io sono molto scettico sulla questione della revoca, perché anche lo Stato ha le sue colpe. Lo Stato addirittura non ha, proprio nel processo in corso, non ha ancora deciso da che parte stare, cioè al momento ha concesso il patrocinio al più alto in grado degli indagati, non ha ancora deciso di costituirsi parte civile o parte offesa, ha perso questa occasione nell'incidente probatorio. Lo Stato non ha voluto fare determinate cose, altre cose, non ha voluto attivare l'agenzia di vigilanza che dovrebbe poi garantire a tutti i cittadini che in futuro non accadano più cose di questo tipo, non ha ancora detto cosa bisogna fare dei 20 miliardi che sono necessari, dove si trovano e come si trovano i 20 miliardi che sono necessari per rifare, per risanare la rete. Quindi tutti i motivi per cui credo che la revoca sia improbabile, sarebbe un vicolo cieco probabilmente anche per lo Stato, e quindi probabilmente si continuerà a trattare sul prezzo di questa manleva. Grazie Maurizio Caprino e grazie naturalmente anche a Egle Possetti del Comitato Ricordo delle Vittime del Ponte Morandi. Staremo naturalmente a vedere, le dichiarazioni oggi non mancano, c'è proprio della cronaca, ripeto, la revoca è più vicina, ha detto poco fa la ministra De Micheli. Adesso invece riapriamo una pagina di cronaca, perché la polizia postale sta ancora indagando a Napoli per capire se dietro alla morte e al suicidio dell'undicenne avvenuto ieri proprio a Napoli possa esserci un adescamento online avvenuto proprio attraverso i meccanismi che in passato abbiamo descritto più volte, Blue Whale, Jonathan Galindo, ma siamo andati con Maria Luisa Pezzali a cercare di capire davvero che cosa potrebbe esserci, come funzionano queste challenge. Procede per istigazione al suicidio l'indagine della Procura di Napoli sulla morte del bambino di 11 anni gettatosi dal balcone a Napoli dopo aver scritto ai genitori via chat: vi amo ma devo seguire l'uomo incappucciato. Una vicenda sulla quale si allunga l'ombra delle cosiddette challenge dell'orrore, sfide online che comprendono atti di autolesionismo fino al suicidio. Tra bufale e realtà, qual è la verità su queste tipologie di giochi online? Come funzionano? Lo abbiamo chiesto a Gabriele Costa, ricercatore dell'IMT di Lucca, esperto in cyber security. Avere una visione a 360 gradi di cosa esiste nella rete, esiste tra virgolette, non è semplice al giorno d'oggi. Non mi sentirei di escludere che questo tipo di contenuti possano esistere, che questo tipo di organizzazioni possano esistere in maniera strutturata, organizzata e razionale. Non possiamo escludere che certi fenomeni si manifestino anche come risultato di azioni di singoli che non stanno cercando di orchestrarsi tra di loro e in questo modo contribuiscono a un fenomeno generale che sfugge al controllo dei singoli che ne fanno parte. Attraverso quali dinamiche avviene questo adescamento? Tipicamente questo avviene tramite tecniche di social engineering, le metodologie che vengono applicate per coinvolgere gli individui in processi contro la loro volontà o diciamo in maniera incosciente. E chi coscientemente applica il social engineering, tipicamente va alla ricerca di una vulnerabilità. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 13.27 minuti, cari ascoltatori, sulla scia delle ordinanze che riguardano le mascherine in tutta Italia, quello che abbiamo definito il federalismo della mascherina, ve lo spieghiamo bene e tra un po' vi daremo anche una testimonianza. Allora, negli ultimi giorni si sono fioccate le ordinanze, c'è chi le vuole nel weekend, chi davanti alle scuole, chi sempre. L'ultimo a intervenire in ordine di tempo, il sindaco di Bologna, Merola, obbligo di mascherina all'aperto nel weekend in centro, in vigore dalle 18 alle 24 in tutto il centro storico. Altre ordinanze sono quelle della Sicilia, obbligo da ieri almeno fino al 30 ottobre quando si è tra estranei. Qui c'è questa sottolineatura, occorre sempre averla con sé quando si esce di casa. Poi ci sono le ordinanze della Calabria, l'obbligo sempre all'aperto, la stessa cosa in Campania, dove il governatore De Luca ha anche firmato un'ordinanza con un giro di vite relativo alla movida. In Lombardia, in vigore fino al 15 ottobre, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto quando non è garantito il distanziamento. E poi ci sono le ordinanze cittadine. A Foggia, per esempio, l'obbligo vale solo davanti agli edifici scolastici. Poi hanno disposto la chiusura dei centri commerciali la domenica e nei giorni festivi, ma qui non è già più tema mascherina. A Genova, tornando alla mascherina, il divieto riguarda l'obbligo di indossarla riguarda le vie del centro storico per l'intera giornata. Alla Spezia da tempo è obbligatoria, perché alla Spezia c'è stato un focolaio particolare. Il comune di Latina infine ha imposto l'obbligatorietà della mascherina 24 ore su 24 sia al chiuso che all'aperto. L'ultimo in ordine di tempo riguarda il piccolo comune di Vizzolo Predabissi. È con noi la sindaca Luisa Salvatori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Stiamo parlando di un piccolo comune della città metropolitana di Milano, una zona dell'Odigiano che è stata intensamente colpita nella prima fase dal coronavirus. Perché lei, che tra l'altro è alle cronache e viene descritta anche come una scienziata, perché è laureata in fisica e fa valere anche queste sue competenze, no, in questa decisione, perché questo obbligo di mascherina all'aperto nel suo piccolo comune? Guardi, allora, il nostro comune è al confine con il Lodigiano. Abbiamo il primo ospedale sul territorio dopo l'ospedale di Lodi, quindi nella prima mandata siamo stati penalizzati duramente, abbiamo avuto moltissimi decessi, abbiamo avuto moltissimi casi e le persone in generale si sono comportate molto bene. Dopo le vacanze estive purtroppo si è un po' perso il senso il filo del pericolo, esatto. Si è allontanata la paura un po' per tutti, esatto, e quindi si è allentata anche la tensione. Quindi lei, esatto, ha pensato di intervenire per questo. Esatto, soprattutto perché abbiamo fatto tutti, credo, tutti i sindaci, tutti i comuni, grandi sforzi perché i ragazzi tornino a scuola. La scuola è fondamentale. Quindi nel momento in cui si rischia per la scuola, esatto, lei dice abbassiamo i rischi altrove. Esatto. I ragazzi fuori dalla scuola, sì, si comportano come se niente fosse, quindi io parlando con loro, gridandoli un po' anche amorevolmente perché ho un buon rapporto con gli studenti, mi hanno risposto ma tanto non è obbligatorio. Per e allora lei ha detto facciamo che la renda obbligatoria. E ho detto bene, per loro e per tutti i cittadini, in fondo è un piccolo sforzo ma credo che possa valerne la pena. Senta, perché la scuola deve andare avanti. Assolutamente. Sindaco Salvatori, però non crede che si possa alimentare un po' di confusione, un po' di ognuno no, fa come crede, ognuno fa come vuole, certo, se anche piccoli comuni come il suo poi prendono decisioni che magari passato il confine a pochi metri di distanza non valgono più e viceversa. Beh certo, questo è una cosa che ho valutato, tra l'altro ne sto parlando con i sindaci dei dintorni perché siamo sempre connessi, siamo sempre disposti a collaborare, probabilmente la mia decisione sarà adottata anche da altri comuni limitrofi. Io l'ho detto, fondamentalmente l'ho fatto per i ragazzi, perché i ragazzi devono avvertire questo senso di responsabilità. Io ho già 4 studenti positivi, una classe in quarantena dal secondo giorno di scuola e poi loro diventano portatori di virus all'interno della famiglia, quindi è un attimo e quindi vorrei che loro capissero che è vietato quando sono fuori da scuola ad avere questa, io la chiamo la modalità parco, ecco, ci vuole proprio poco. Va bene. Un po' di attenzione. Grazie al sindaca Luisa Salvatori di Vizzolo Predabissi. 13:32. C'è la borsa, poi torniamo con tutte le altre notizie. 349-238-6666. Andremo anche in Spagna per vedere come mai la città di Madrid e il governo centrale stanno litigando proprio sulle ordinanze. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Effetto giorno. Le notizie di oggi: coronavirus, Conte, proporremo al Parlamento la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Tensione invece in Spagna tra governo centrale e la città di Madrid, che dice no ad ulteriori restrizioni, la situazione sta migliorando. Presidenziali americane, secondo i sondaggisti Biden è in vantaggio di Trump di alcuni punti dopo il primo faccia a faccia televisivo. Istat, ad agosto prosegue la crescita dei posti di lavoro, più 83.000 occupati. Il punto di Alberto Orioli. Il dato dell'Istat sul mercato del lavoro ad agosto segnala una piccola ripartenza dell'occupazione, ma è interessante guardare al dato del tasso di occupazione, che è il rapporto tra occupati che abbiano tra 15 e 64 anni di età e la corrispondente popolazione di riferimento. Quel tasso è al 58,1%, la media europea è di oltre il 73%, quindi l'Italia in questo indicatore è il penultimo paese dell'Unione e significa che sprechiamo il nostro capitale umano. A riprova di una ripartenza dopo il lockdown, il tasso di occupazione di agosto su quello di luglio è salito dello 0,1%, a dire il vero è un piccolo passo, ma molto piccolo, perché in un anno in realtà è sceso dell'1%. Sembrano sofismi statistici, ma non è così. Nel documento che il governo italiano ha presentato a Bruxelles con le linee guida del Recovery Plan, ha scritto che intende far aumentare di 10 punti il tasso di occupazione. Significa, tradotto in persone, quasi 4 milioni di lavoratori in più. 10 punti dunque, mentre ne perdiamo già uno. Bisogna stare attenti a dialogare con i partner europei. Gli obiettivi, per essere creduti, devono anche essere realistici, perché a Bruxelles non perdonano né l'ingenuità né i bluff. E va bene, adesso, come detto, andiamo in Spagna e con noi il collega corrispondente da Barcellona, Mario Magarò. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora Mario, ci sono in queste ore delle tensioni, c'erano già state nei giorni scorsi, ma sono tornate tra il governo centrale e l'amministrazione di Madrid. Il assessore alla sanità della regione di Madrid ha detto che è contrario alle nuove restrizioni volute dal governo, dice il governo ha fretta di intervenire a Madrid ma non per lottare contro il coronavirus. Nei giorni precedenti anche la presidente della comunità aveva detto che insomma c'era un po' un braccio di ferro, si voleva mettere le briglie all'autonomia di Madrid. Quali sono intanto, però ti chiedo, le ordinanze per cui stanno litigando in questo momento il governo e Madrid? Ma concretamente l'ordinanza che è effettiva da questa mattina, da quando è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, il governo centrale ha dato però 48 ore di tempo alle singole comunità autonome, quindi in primis a quella di Madrid, per applicare le nuove disposizioni che si applicano alle città con 100.000 abitanti. 100.000 abitanti in poi sono sostanzialmente tre i parametri a cui si fa riferimento, sì, ovvero 500 casi per ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, oltre il 10% di positivi al Covid ai test diagnostici nei singoli comuni e il 35% dei posti letto delle unità di terapia intensiva sia stato occupato da malati Covid. Insomma, quindi a livello nazionale tutti i comuni, tutte le città di oltre 100.000 abitanti che rientrano in questi parametri automaticamente entrano in questa sorta di semi-lockdown. Le misure a cui facevo riferimento, concretamente la mobilità in entrata e in uscita nei comuni viene ristretta, viene consentita soltanto per motivi di lavoro, di salute, di causa di forza maggiore. Le persone però, gli abitanti, possono muoversi all'interno, sì, del singolo comune, però ad esempio la capienza di bar, ristoranti, negozi viene limitata al 50%, la chiusura entro le 22, chiusura dei parchi giochi pubblici, e in sostanza le persone si possono muovere all'interno dei comuni semi confinati, rispettando però le misure anti-Covid, in primis l'obbligatorietà della mascherina anche negli spazi pubblici, certo. Vengono ridotte le riunioni tanto familiari come tra amici, il numero massimo di 6 persone. È in atto però una vera e propria battaglia giuridica, come diceva in studio, tra il governo centrale e il governo della comunità autonoma. Ecco, visto che i parametri ce li hai descritti, Madrid rientra in questi parametri, come andrà a finire questo braccio di ferro? Madrid rientra assolutamente in questi parametri, allo stato attuale sono 11 le città in tutto il territorio nazionale, quindi tutta la Spagna, che rientrano in questi parametri. E sono sostanzialmente Madrid e tutti i popolosissimi comuni, soprattutto dell'area sud di Madrid, città come Fuenlabrada, Getafe, Alcalá de Henares, più altre città come Pamplona, cioè Girona, anche qui in Catalogna potrebbe essere un comune insomma a rischio da quindi punto, al di là di queste di schermaglie mi sembra di capire che la direzione è segnata nel senso di questa misure restrittive anche per Madrid. Sì, assolutamente, d'altronde poi il governo ovviamente sta facendo la voce forte, il coltello alla parte del manico ce l'ha il governo centrale. Dove vai lo scontro nel corso delle prossime ore, appunto le prossime 48 ore, diventasse davvero pesante, il governo addirittura potrebbe ricorrere al famoso articolo 155 della Costituzione, che fu quello a cui insomma venne applicato 3 anni fa in Catalogna quando fu istituito il governo ribelle. Assolutamente. Altre questioni, ma stesso nodo del rapporto, grazie Mario Magarò, tra il governo centrale e le comunità locali in Spagna. Prima di andare in break, aggiornamento sulla questione campionato di calcio di Serie A, Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Beh, innanzitutto ci sono i risultati delle partite di ieri con le grandi vittorie, sì, dell'Inter e dell'Atalanta sul campo della Lazio. Tanti gol segnati e grandi condizioni per i nerazzurri, colore molto di moda in questo autunno. Poi per quanto riguarda la questione sospensione del campionato di calcio, è intervenuto anche Sidney, il viceministro, che ha detto che non esiste rischio di sospensione del campionato. Non è ancora stato deciso nulla alla Lega, con ogni probabilità verrà adottato dopo la pausa per le nazionali il regolamento dell'UEFA, cioè 13 giocatori compreso un portiere in grado di scendere in campo, quindi verrà fissato quel limite, che però non è ancora operativo. Si va invece verso il rinvio, che sembra una questione di buon senso, di Torino-Genoa, sì, perché lì proprio le condizioni non ci sono. Grazie Carlo, grazie mille, ci risentiamo con voi del pomeriggio sportivo dopo il GR delle 14. Noi invece ci fermiamo e torniamo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.